Unicredit è scivolata su Brontos ed ora è accusata di frode fiscale dalla Procura di Milano. Ma Brontos è solo l'ultimo marchingegno grazie al quale le banche sottrarrebbero soldi al fisco. Si tratta di un prodotto messo a punto dalla banca inglese Barclays, ideato secondo i PM per eludere le tasse, facendo passare un deposito interbancario per un altro prodotto, un pronti contro termine. Il giochetto è un po' più complicato di così ed è fatto apposta perché ci si perda. La Procura indagherà, ma in generale dalle indagini degli 007 emergono decine di operazioni effettuate dalle banche per evadere o eludere il fisco. Dai costi gonfiati e poi caricati sui bilanci per abbassare gli utili e pagare meno tasse, alle violazioni delle norme sui prezzi di trasferimento con le controllate estere. L'Agenzia delle Entrate negli ultimi anni non ha avuto timori reverenziali e ha sollevato diversi casi. La prima vertenza ha riguardato nel dicembre 2010 il Credito Emiliano Romagnolo, riconosciuto colpevole di aver nascosto al fisco 50 milioni di euro. Di seguito una valanga. Hanno patteggiato, lontano dai riflettori, la Popolare di Milano per 220 milioni di euro, il Banco Popolare per 210 e Credem per 54. Si dice che ora sarà la volta dei pesci grossi. Nelle casse dello Stato potrebbero entrare da 1 a 3 miliardi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.